buongiorno. Vabbè, sono per parlare, fatti, ciao. Avevo il microfono abbassato, ti ho risposto ma non mi hai sentito perché avevo il microfono abbassato. Ciao Giulio, buongiorno. Io ho provato a farti entrare, ma non avendo risposta, giustamente, non continuo. Certo, Tino, hai ragione. Avevo azzerato il volume del microfono, per cui non stavo scendendo in radio. Però ti avevo già risposto nel frattempo, ma non avevo nemmeno controllato lo smitter per vedere se uscivo o meno. Dopo mi sono ricordato che ieri sera avevo abbassato tutto il volume del microfono. Perfetto, comunque non stai uscendo bene, Giulio, mi dispiace, ma oggi sei a scariche, per giunta hai molta alternata, ma molta, aspetta che c'è, l'alimentatore del telefonino attaccato, aspetta che lo stacco. Sì, poi anche un po' di innesco causato soprattutto credo da quello. Boh, vediamo com'è adesso. Hai un leggero innesco adesso, che diciamo che non è che disturbi più di tanto perché la tua radio lo abbassa, però c'è. Vediamo, adesso mi sono allontanato, forse il microfono è troppo vicino al baracchino, sarà per quello, non lo so. Ma guarda, io ti stavo ascoltando anche ieri su 10 e non stavi andando bene, poi non mi sono... Non sono entrato perché con certa gente non ci parlo, quindi a parte te è meglio lasciar perdere. Ho capito, sì, infatti ieri me l'avevo detto che stavo uscendo male, ma poi avevo cambiato la batteria, l'ho cambiato, non lo so, ma forse c'è l'orologio qui, ho un orologio digitale, anche che è sempre attaccato, adesso fa... appunto dove c'è il baracchino, sarà quello che fa un po' di alternata, non lo so. Vabbè, leggera, in confronto a ieri leggera, però c'è. Ok, vediamo, posso riesco a eliminare anche quello, ma perché non ne ho mai avuto io alternata, strano però, strano, non so cosa dire, aspetta un No, diciamo che hai anche, qualche rumore di vento, ma quello è normale, fa parte della radio. Vediamo adesso ho staccato anche l'orologio, che poi è una radio, c'è l'orologio, c'è il CD, c'è un po' di tutto, insomma, ecco, è il digitale. Non lo so, vediamo adesso se va meglio. No, di sottofondo... Vai, però lascia la portante inserita senza parlare. Ecco così. Vediamo, ma cos'è che devo mettere? Ci picchiava. Non lo so. Ecco, vai. Se noti già si sente appena poi, ma vai a tapparla, Giulio, vai a tapparla, no, senza nessun problema, cioè, la tua modulazione è, come al solito è perfetta, per carità, però quando metti l'orecchio a sentire le piccole cose che ci sono in giro, è meglio sempre avvisare, no? Certo che sì, strano, perché non me l'hanno mai... nessuno, adesso non lo so, adesso qui è solo un malattio, non c'è altro, cosa può essere? L'alimentatore che stia creando un pochino di cose, guarda se c'è l'alimentatore, non lo so, che stia andando in lavaria l'alimentatore, e di quelli alimentatori tradizionali a trasformatore, non è quello switching. Vabbè, provo a abbassare leggermente l'amplificazione. Che sia quello, vediamo. Ecco così, adesso l'ho abbassata appena. Adesso è 1, 2, A4, A4 c'è il microfono adesso. Microfono è A4. Vabbè, ma perché capire cosa stai utilizzando, perché il microfono è il più 4, il più 5. Più 4, il 4 è. Ma dov'eri? A 4 non ha cambiato niente, eh? Prova a passare ancora. Ma c'ho ancora. A 3. Ecco, adesso è a 3. Non notare, perché in certi momenti mi avvicina poco per guardare a quanto era. Adesso è a 3. No, non è un problema quello. Ti sto ascoltando con una con in alta definizione, quindi non è un problema. Provo ancora a passare, non è cambiato niente, eh. L'amplificazione è sempre da quando eri, c'eri a 5, a 6, sono non lo so, a 4 non ha cambiato niente e anche adesso non ha cambiato niente. Che sia questa ciabatta che c'è lei, che cambio. Fa una cortesia, ma giusto per prova quello che metti come di prima, mettilo a 1. Adesso sono diretto senza una ciabatta, perché c'è un interruttore, avevo una adattatore con l'ete, no, con la lampadina, che sia quello, vediamo. No, niente. Allora, la precipitazione la puoi mettere come acciaio di prima, perché tanto se l'hai messo a 1 adesso non ha cambiato niente, lo puoi fare come meglio credi tu. Si sente leggermente questo fatto del neanche un innesco, ma non è, ti ripeto, non è che disturba, è che si sente come che hai un po' come te lo posso spiegare, sia una ventola accesa, io se puoi dire mi si è accesa la ventola, però c'è che tu la senti, guarda quando sono zitto. Quando magari parlo vuol dire che credo che un po' la modulazione non la fatti. Boh, sarà quello allora, non so cosa dire. Questo qui è il coso. E ci ha cambiato il mentatore, vediamo un po'. Scusa, è un mattino, tanto siamo da soli, possiamo fare tutte le. Vai tranquillo, io sono qua, non c'è problema. Adesso ho cambiato l'alimentatore, Tino, che sia quello, vediamo un po' se è quello, quell'altro lo spengo, ecco qua, così, vai. Guarda, giù, io non ho notato nessun tipo di cambiamento, se tu l'hai fatto o se non l'hai fatto, per quanto riguarda l'alimentazione, il rumore è rimasto sempre il solito, niente di strano che sia il fatto della radio che... come va in tensione si ha questo rumorino qua, ma no, ti ripeto, non è una cosa che dà fastidio, fa parte della radio, fa parte del... però poc'anzi ce l'avevi molto più gracchiante, ti stava disturbando, come potrebbe essere anche qualche filino, tu sei meglio di me, qualche filino del microfono, tocca non tocca, che ti sta dando un problemino di questo raschiamento, Non so cosa dirti, non so cosa fare, perché adesso sono un baracchino diretto, nella presa, è diretto, senza l'adattatore, senza niente, e con l'alimentatore sui cinghi in questo momento. Il mio corpo è sempre quello, sarà questione di massa, non lo so. Vedi, adesso mi hai tolto la parola alla bocca, potrebbe essere anche quello, una questione di massa che magari non va a fare ben massa e ti fa questo, sembra un'alternata leggera, tipo per farti capire, Giulio. Sì, ho capito cosa vuoi dire, ho capito, anche se abbasso ancora il microfono è sempre lo stesso discorso, non cambia niente, no? Guarda, non so quanto ce l'hai sul microfono, prova a metterla a 1, tanto non è cambiato, l'amplificazione è sempre rimasta così come ce l'hai, eh? C'è a 2, adesso è a 1, adesso in questo momento è a 1, in questo momento è a 1 il microfono. Guarda, adesso un po' l'hai alleggerito, la radio è rimasta sempre la stessa, con amplificazione è buona, non so cosa dirci di più. No, non lo so, perché ieri ho messo la batteria nuova, non so cosa dirci, vabbè, pazienza. Comunque quando modulo mi hai detto che supera l'alternata, no? C'è che non c'è problema, almeno in quel momento. Guarda, se vuoi ti faccio anche un video, una piccola registrazione per farti sentire come sto scendendo, vedere il tempo di prendere il telefono e non è un problema. Vabbè, come vuoi, se non ti disturba, se non ti disturba non c'è problema, o Tino, se a te non ti dà fastidio fare questo video, questa registrazione, vedi un po', adesso è a uno, poi adesso lo metto, solitamente io il microfono lo uso così, come in questo momento, a 5, di solito io lo uso così, ecco, fammela così la registrazione, così sicuramente se devo sentire fuori il rumore del fondo lo sentirò un po' più forte. Ok, io ti faccio la registrazione, Giulio, però tu fai un passaggio parlato e poi lasci la portante inserita senza parlare, così capisci cosa intendo dirti, ok? Quando vuoi, sei in registrazione. Ok, io sono pronto, dai, io sto già parlando e dunque vediamo un po', adesso ho il tempo di preparare per fare la registrazione, per cui va bene così, se vediamo un po' se riesco a risolvere questo problema, perché è strano, perché mai nessuno me l'aveva detto, anche perché non credo di aver mai avuto niente di strano, a meno che non sia il microfono che sia successo qualcosa, non so cosa dirti, perché questo qui non è il microfono suo originale, è il microfono che io ho adattato, ma lo uso da anni e anni e anni su tutte le baracchine che ho avuto e con questo lo sto usando da almeno un anno e mezzo, per cui adesso metto la portante solamente, guarda. Ok, guarda, sono proprio al limite della registrazione, quasi alla fine, è stato un passaggio troppo lungo, quindi quasi alla fine lo dovresti sentire, si sta caricando, poi te lo mando, perché è durato un bel po' come passaggio. Hai cessato anche qualche secondo di bianco e lo senti. Il maggior picco è stato quasi alla fine della registrazione, quando è arrivato l'ora. Va bene, d'accordo, sì, d'accordo. Così lo ascoltiamo, vediamo un po' se riesco. Poi casomai per vedere se è il microfono o se è la radio, sai cosa faccio? Posso inserire per un attimo il microfono suo normale, quello originale del baracchino. E così vediamo se anche quello fa questo ronzio. Allora in quel caso lì vuol dire che non è il microfono. E lo faccio in questo momento. Mi adesso stacco questo microfono e metto quello normale, che lo sentirei più basso, ma è un normalissimo palmare, per cui non c'è problema. Ok. Guarda, lascia solo la portante ora. Ecco qua. Vai. Ok, qua per modo di più che altro di amplificazione. Va bene. Ti rispondo andando entrambi, così almeno adesso un attimino che l'altro è molto carico, quindi ci mette un po' a rifare. Poi prova con l'altro microfono, Giulio. Ecco, adesso sono col microfono suo originale, vediamo un po' se c'è anche con questo microfono, ti lascio solamente la portante, guarda. Vai? No, assolutamente, con questo microfono non c'è nessun tipo di rumore, però la radio, perdonami, ma è fissima, nel senso che con l'altro c'è un abisso, è molto più amplificato, molto più squillante, molto più presente, questa è un po' papierina e sembra in cantina. Hai tolto tutti i rumori di fondo, quello senza ombra di dubbio, però la radio non è bella, a mio parere, io parlo sempre per me. Sì, capisco, beh certo che sì, c'è una notevolissima differenza, questo microfono è normale, è normalissimo, della saponetta piccolissima tra l'altro, è il suo originale. Ah, ecco, allora è dovuto al microfono, all'accoppiamento col baracchino del microfono. Vabbè, spero di risolvere se è possibile, se ho pazienza. Continuerò così, cosa vuoi che ti dica? Tanto se mi sta dicendo che quando parlo l'alternata non si sente per niente, allora va bene così lo stesso. Certo, no, ma qui è molto rumore, più che alternata, te l'ho detto, una cosa raccoglie molto i rumori esterni e li fanno risaltare molto. Però voglio dire, ho già detto, la tua modulazione e la tappa benissimo, quindi non ti preoccupare. È che ho fatto un piccolo video, però ancora non sta caricando. Noterai che è una cassa di linea e quindi con i filtri balle varie, quindi riesce a toglierti anche le piccolezze. Ok, ho capito, sì. Penso che sì. Vabbè, dai, comunque. Perché ieri mi stavo dicendo che ho fatto di radio, ma avevo la batteria, ce l'avevo almeno 3 anni questa batteria. E infatti quando fu sostituita la radio ha cambiato dal giorno alla notte, o meglio dalla notte al giorno, perché prima dice che era bassa la radio, poi ho messo la batteria nuova, la radio mi hanno detto che era fortissima e dunque era normale così. Però con questo fatto dell'alternata non ne sapevo niente, la verità, non ne sapevo niente. Non è un problema, è che appena ho caricato lo invio direttamente comunque. Sì, va bene, già, il telefonino già ce l'ho qua vicino a me, per cui non c'è problema, quando arriva lo guardo, per cui va bene così. Bene. E allora, a capire, da molto si è senza sentito, adesso io non l'ho più sentito già da un bel po' di giorni. Sì, sono molto perché, scusa, nel frattempo sto facendo cosa, sono molto perché, vabbè, lui sta facendo il service, sta lavorando e quindi adesso con la scusa che un po' da tre parti c'è festa, è impegnato, vabbè, quindi quando ha il momento libero giustamente entra in radio, però adesso sto lavorando, quindi rientra tardi, non combaciano gli orari, ecco. Ho capito, non so, poi lui, questo è il periodo suo, dove ci sono gli spettacoli, eccetera, lui è sempre impegnato in queste cose, chiaramente, e ha ragione, prima il lavoro, poi la passione per il baracchino, è tutta un'altra cosa, certo che sì, e anche tanto Franco, lo stesso, sono tanto tempo senza sentirlo, per cui ci saranno momenti che ci sentiremo, non ci sono problemi. No, con Franco fino a ieri notte eravamo in radio, abbiamo fatto anche per questo. Poi però sono andato a mangiare, ho ripreso più tardi e abbiamo ripreso nuovamente, sì. Giulio, adesso ne approfitto, visto che ci sei tu, aspetta che metto questo. Ho la scrivania un po' incasinata. Se ne hai voglia, ti faccio sentire un microfono che ho cambiato una capsula, mi dici la differenza di entrambi i microfoni, quale secondo te è meglio o se posso regolare, capito? Se non ti disturba. Cambia, fai tutte le prove che vuoi, non c'è problema, Tino, siamo soli, non diamo fastidio a nessuno, per cui possiamo fare tutti i controlli che vuoi, non c'è problema. Aspetta un attimino, cambiato il radio, Eccolo qua, non so se questo microfono ti piace, se vuoi alzare l'amplificazione o meno, magari tu poc'anzi mi hai ascoltato con l'altra radio, vedi un pochino se ha qualcosa di similare, ecco. Ma diciamo che è leggermente più meno colposo dell'altro, l'altro era più forte, diciamo, era più colposo. Questo qui rimane un pochino leggermente più basso, però è buono lo stesso, è molto buono anche questo, non c'è problema. Perfetto, no, provo a aumentare l'amplificazione perché questo è un microfono che avevo parcheggiato e la mettiamo un attimino a 9, dai, vediamo a 9 se ha cambiato ancora, se ha migliorato. Sì, ma è più o meno come l'altro, non è che ci sia questa grande differenza, però voglio dire, l'altro mi sembrava colorazione la timbrica era più grossa, diciamo, ecco, definiamola in questo modo. Sì, perfetto, perfetto, ma qua voglio dire, ho la possibilità di alzare sia l'amplificazione che i toni. Praticamente dovresti dirmelo tu se aumentare o meno per farla una sorta similare a quell'altra, se ci riusciamo, sono pazienza. Proviamo, dai, proviamo, fai tutte le prove che vuoi. Adesso ho aumentato anche un po' il volume, così lo posso sentire anche meglio, in caso ci fossero delle variazioni di timbrica e di qualsiasi altra cosa. Vai tutte le prove che vuoi, dai, così io ti rispondo. Guarda, adesso faccio una prova a mettere il tono un pochino più alto, vediamo se ha cambiato qualche cosa. Mi sembra leggermente più forte, ma di poco però, una cosa quasi invisibile come cosa, e non è che ci sia questa grande differenza. Però va bene, ma andava bene anche prima, sia ben chiaro, andava benissimo anche prima. Sì, sì, sì. No, vabbè, non lo metto in dubbio, era perché io a mio piacere preferirei avere bene o male microfoni un po' similari, ecco. Se posso aumento ancora il tono, poi vediamo, me lo dici tu. Lo aumento ancora di un pochino, vediamo se ha cambiato, 1, 2, 3, prova di modulazione. Ecco, vedi, adesso ti sei avvicinato come colposità di radio, ti sei avvicinato tantissimo a come era prima con l'altra radio, per cui suppongo che siano più o meno la stessa cosa. Ecco, ho alzato leggermente i toni, leggermente, oddio, leggermente no, perché uno ce l'aveva a 2, adesso ce l'ho a 6, quindi qualcosa ha cambiato. Va bene, non ti faccio il passaggio con l'altra radio perché non può essere assolutamente preciso, questo lo capisco, però posso cambiare un microfono a questa radio che sto utilizzando e mi dici se bene o male si assomigliano o se c'è qualcosa da interagire ancora con questo microfono che sto utilizzando ora. Ok, adesso cambio il microfono. Va bene, cambia pure, non c'è problema, sono qua. Dammi un minuto perché la ghiera qua era stretta, porca miseria, ok, ci sono. L'hai già cambiato? Se l'hai cambiato è uguale. No, adesso l'ho cambiato, adesso. No, era la ghiera troppo forte. Questo è il microfono 2. Questo è leggermente più chiaro. Ma è ottimo, ma è un ottimo microfono, veramente. Anche l'altro non dispiace assolutamente, però questo mi piace un po' di più. Sì, questo non avevo dubbi, infatti vorrei fare l'altro microfono similare a questo, se ci riusciamo, cioè tieni presente magari un pochino questa timbrica qua, questa modulazione qua, se riusciamo a fare la stessa cosa, non credo perché sono due marche differenti, però siccome gli ho cambiato una capsula, non so se rimettergli quella che c'era prima o meno, non so se ho peggiorato o migliorato il microfono cambiandogli la capsula, hai capito Giù? Questo è il microfono suo originale di questa radio qua, e quindi giustamente credo che sei più abituato a sentirmi con questa timbrica qua. Sì, infatti questa è la timbrica che io ti ho sempre sentito, ed è quella originalissima, non ci sono dubbi, questa è veramente un'ottima modulazione, ma bella, veramente bella. Però vediamo un po' se regolando con l'altro microfono riesci ad avvicinarti a questo a questa timbrica qua, prova. Eccolo qua, adesso vediamo se devo abbassare o aumentare qualcosa, questo me lo devi dire tu, se è più alto di amplificazione, se è più basso, se devo togliere i toni, se devo mettere. Questo è il microfono che stavamo provando poc'anzi. Ecco, allora, diciamo che questa la amplificazione è sempre bellissima lo stesso, solo che questa qui è leggermente più nasina dell'altra, però è lo stesso, fortissima, chiarissima, non c'è che dire. Prova a vedere, a aumentare ancora i toni, a dare i toni più bassi, no? Non più acuti, perché questa mi sa che ha un senso di acuto, ed è quello che di differenza dall'altro microfono. Sì, ho capito. Guarda un po' se ha migliorato o se ha peggiorato, se no gli abbassiamo nuovamente a 1, a 2, adesso vediamo. Ecco, vedi, così l'hai già migliorato, così l'hai proprio avvicinato moltissimo all'altro microfono, quello originale, chiamiamolo così, per definire sia l'uno che l'altro microfono. Così l'hai proprio avvicinato moltissimo. Posso farlo ancora altro pochino, perché vediamo un attimino, poi mi dici tu. Eccolo qua, ho ancora altra pacchetta da poter utilizzare se dovesse andare male. No, io direi che può andare bene anche così, guarda. Se poi vuoi provare ancora a abbassarlo, vedi un po', abbassa sempre i toni alti, perché questo secondo me adesso ci siamo proprio con l'altro microfono originale. Perfetto Giulio, perfetto, poi adesso così vediamo un po' se ha migliorato o se ha peggiorato, questo è l'ultimo passaggio che ti posso fare perché oltre non posso andare. No, non c'è stata nessuna differenza, perlomeno non udibile, poi tecnicamente non lo so, però non udibile questa la differenza, assolutamente. Va benissimo, guarda, va benissimo così e anche nel passaggio precedente a questo. Perfetto, vedi, ho raggiunto magari un compromesso, perché giustamente adesso ti dico cosa stavo utilizzando. Uno è un MC60, come tu di solito conosci, della radio, della mia radio, e l'altro invece in accoppiata è un Q5, però con un cambio di una capsula microfonica di tipo quelli che fanno presentazioni sui palchi, su che cantano, insomma, quasi da studio. Ho capito, sì, ho capito. Infatti nel Q5 devi praticamente eliminare quasi tutti i toni alti proprio per renderla simile al microfono originale, che per così dire. Sì, no, ma va bene, non c'è che dire, vanno ottimamente bene anche questo, non c'è problema. Perfetto, ma io ancora sto guardando, forse te ne è arrivato uno di video, cioè, vediamo un attimo, aspetta. È arrivato l'ultimo video che ti ho mandato, che eri col palmare, si sente alla fine un po' di boelame. Ecco qua, è arrivato anche l'altro, sicuramente ti è arrivato anche l'altro, il primo, che dura 1 minuto e 11 secondi. Lo dovresti sentire ora. Va bene, scusa un attimo, allora che riascolto, così almeno me ne rendo conto. Perfetto, siamo qua, non ti preoccupare Giulio, sono qua. Hai sentito Giulio? Sì, Tino, ho notato la differenza, e ho sentito anche quella specie di rumore che c'è sotto nel fondo, sì, ho capito. Adesso vabbè, in questo momento c'è la ventola del switching che sta funzionando, la sentirai sicuramente, però non fare caso a quello, intanto io uso sempre l'altro alimentatore, ma poco anche l'avevo sostituito, e va bene così, sì, me ne sono reso conto, però tra un microfono e l'altro c'è un abisso veramente, hai ragione, l'altro è proprio basso, un pappellino eccetera, questo amplificato è un signor microfono, insomma, ecco. Sì, va bene, ma infatti l'ho detto. Ma poi il resto, la tua modulazione tappa tutti gli rumori che ci sono in giro, quindi non devi avere nessun tipo di problemi. Infatti, appunto, vabbè, questo è un baracchino, non è che sia un granché, non è una radio, è un baracchino e basta. CRT 3609, sì che è un baracchino e niente di più, per cui non è che posso pretendere tanto, perché il capo non ce l'ho più, per cui me ne ero disfatto, e allora quella sì che era una radio, però non mi pento perché intanto non mi interessava più, non mi serviva, tanto che mi si era guardato. l'ennesima volta mi si era guastato, l'avevo aggiustato tre volte, ma pure la quarta volta ci avevo rinunciato, l'ho messo da parte e l'ho venduto così senza essere funzionante. Per cui però mi è rimasto il microfono, l'MC60 mi è rimasto e quello ce l'ho sempre. Perfetto, perfetto. Ma non sapevo che l'avevi venduto per via dei guasti, lo potevi dire, te l'avrei fatto riparare senza problemi. Comunque non è un problema, ormai è fatto, è venduto e va bene. Sì, beh certo, era sempre il solito discorso dei puntini, sai, quei puntini che si mettono nel display, sempre quello praticamente, il discorso era quello, perché l'ultima volta che me l'aveva riparato era veramente una bomba, andava anche oltre i 100 watt, me l'aveva fatto Fabrizio, mi aveva fatto un gran bel lavoro, ma veramente bello, proprio un ultimo lavoro me l'aveva fatto. E poi invece col tempo, forse è stata colpa mia, anche perché non usavo poco, usavo più il baracchino che la radio, e allora probabilmente sarà per quello che mi ha fregato di nuovo, perché si sono messi i puntini, tant'è vero che chi l'ha comprato se l'ha messa a posto subito in giornata stesso, perché era sempre il discorso dei puntini o Tino. Ma se non sbaglio, quello non è la batteria tampone. Ah, sarà stato anche quello, può darsi che sia stato quello, non so cosa dirti, può darsi, non lo so, so solo che in giornata stessa, la mattina gliel'ho dato, la sera me l'ha fatta ascoltare, funzionante. Sì, la batteria tampone è una stupidaggine quella, spero che almeno l'hai venduto bene. Ma l'ho venduto perché mi hanno fatto l'offerta, così sì che non era funzionante, senza microfono e senza niente, l'ho venduto 200 euro. Io non avrei dato quel prezzo lì, cioè io devo essere sincero, io non meno di 350, se non anche 400 non avrei dato, anche non funzionante, l'ho dato io il 440 con un difetto superiore a quello, ma con la consapevolezza che chi lo stava comprando sapeva cos'era, gli ho detto guarda che fa così così così, e quella, sì va benissimo, non c'è problema, mandalo. E ho venduto 400 euro, cioè 200 euro di differenza sono un botto, quindi voglio dire, e poi il problema che era nel mio era più serio, ma premettere che giustamente la radio era trattata bene, era da vetrina, cioè presentava tutto l'insieme, presentava bene, non era ammaccato, non era verniciato, era tutto originale, quindi non è che... L'unica cosa che, ti ripeto, gli era uscita questa cosa qua, doveva essere sostituito un pezzo che costava intorno ai 50 euro, chi l'ha comprato, a me non piace fregare la gente, quindi chi l'ha comprato era consapevole di quello che stava acquistando, e quando l'ho visto, mi ha detto mandamelo, spediscimelo, mi ha fatto il bonifico istantaneo addirittura, quindi... questa è la serietà di chi compra e di chi vuole una cosa che si vuole aggiustare. Quindi, ti ripeto, questo è il mio pensiero, Giulio, poi se tu l'hai dato perché te ne volevi sbalanzare è un'altra cosa. Sì, l'ho dato perché ormai l'avevo messo da parte, ce l'avevo dentro il cassetto, ormai ci avevo rinunciato a ripararlo, ho fatto cosa me ne faccio una cosa che non funziona e non lo tengo nel cassetto, poi mi avevano fatto questa offerta direttamente. Quello che mi hanno offerto ho accettato, anche perché non mi interessava più averlo, e soprattutto perché tanto come mi sono fatto questi calcoli, intanto ho tolto il microfono, il microfono bene o male, se voglio 100 euro, 90, 100 euro lo vendo sempre volendo, ma non lo vendo, me lo voglio tenere in caso mi dovesse venire l'idea di ricomprarlo un HF, capito? E allora l'MC60 ce l'avrei. E poi tra il viaggio e tutto, perché l'avrei dovuto spedire fuori, perché non potevo rompere le scatole di nuovo a Fabrizio, nonostante una persona gentilissima e che si presta anche a dare una mano, eccetera, eccetera. Me l'ha aggiustato due o tre volte, ti puoi immaginare, per cui però non volevo essere così, diciamo, insistente a chiamarlo e a disturbarlo continuamente, ci mancherebbe. L'ultima volta che me l'ha aggiustato mi è durato un anno e mezzo, una cosa del genere, e poi mi è dispiaciuto in un certo senso, però poi tutto sommato ci avevo funzionava una cosa, avere una cosa che non funziona, tanto vale avere 200 euro che posso, per dire, spenderli magari per comprare un altro, tutto lì aggiungendo magari la differenza. Certo, certo, adesso io lascio un attimo nel bianco, non sembra che qualcuno voglia, voglia entrare. Sì, Giulio, dire, è fatto queste 2+2 è fatto uno, insomma, il tuo pensiero è anche corretto e giusto in base alle cose che giustamente volevi fare tu. Io ti ripeto, svendo non ho perché, se non lo svendo non riesco a comprarne un altro, quindi lo vendo nel giusto, perché era valutato, però l'ho venduto, era valutato bene, e diciamo che con quei soldi lì ho fatto praticamente una sorta di cambio, ecco, nel senso che ho venduto il mio da una parte e dall'altra tramite un'altra persona che mi ha assistito nella compravendita, diciamo, mi ha fatto acquistare quello superiore per poter continuare a lavorare. Certo che sì, hai fatto bene, indubbiamente ti avrai fatto i tuoi calcoli, certamente non sei una persona stupida, perché non fareste mai uno affare in perdita, ci mancherebbe altro. Se l'hai fatto vuol dire che ti è convenuto tu, cioè fare come hai pensato tu, è ovvio. No, io a quel punto ho pensato, ma anche perché invece avevo visto che li trovavo anche a 350 euro, li trovavo, perlomeno stando a quello che dicevano in rete, buone condizioni, 350, 400 euro, compreso microfono e tutto, per cui allora ho detto, ma tutto sommato allora è una cifra che poi a me non è che mi servivano soldi, se fosse stato per dire 50 o 100 euro in più o in meno non è che mi interessava più di tanto, io non è che ho guardato la cifra, assolutamente no, Tino. Bene, avevo gente a cancello, stavo aspettando che non apri il mic, ma già hanno aperto, non c'è problema. Giulio, sì, il discorso tuo è quello, è giusto, per carità, è avere una cosa rotta nel cassetto e non utilizzarla, insomma, non è l'ideale. Volevo sforzare un attimino, scusami Giulio, ti chiamo fra un po'. Ok, Tino, sono qua. Avanti, chi è questo bip? Marco, sei tu? Rieccomi giù, scusami, ma devo salutare il padre di un amico. Non c'è problema, Tino, figurati. Capita. E va bene, comunque, siamo arrivati a questo punto. Va bene così. Oggi no, niente passeggiata in campo, niente, Tino. No. Per dirti la verità, non ho organizzato niente, Giulio, perché ieri notte mio figlio era alla festa grande a Porto Torres, quindi sono rientrati qua a casa con un amico e niente, hanno voluto dormire in camper per non disturbare quando rientravano, perché sono entrati anche tardi, quindi e oggi è arrivato il padre a prendere l'amico di Gabriele. Ok, ho capito, va bene. Bene, tutto a posto, non c'è problema. Sì, e poi cosa dire? Per quanto riguarda l'affluenza così in frequenza, non è che ci sia un grande di attività, però non lo so se fra gli amatori c'è più attività o se anche loro hanno diminuito, ma suppongo che lì sia tutto diverso. Hai sentito piuttosto della nuova norma che hanno fatto per la patente da radioamatoriale, che hanno introdotto la patente N, praticamente una specie di patente speciale come era una volta, per la V e la U? No, è la prima cosa che sento, Giulio, e sinceramente parlando non sono informato. Sì, adesso sembra che ci sia la possibilità, non so se già operativo questo sistema qua, però si può uno presentare e fare fare gli esami solamente per chiedere la patente VEU e basta. Poi non so se si riguarda anche il fatto della potenza utilizzata in VEU, questo non te lo so dire, so solo che si chiama patente N. È praticamente N, più o meno l'introduzione come prima quando c'era la speciale, che si poteva utilizzare solamente i 2 metri e basta, senza poter utilizzare l'HF. Adesso, quanto sembra, l'hanno ripristinato quel sistema e lo chiamano patente N, come novellino, poche parole. Ho capito che no, vabbè. Non mi interessa perché diciamo la verità che, come hai detto tu, non c'è molta attività in giro, quindi, ma anche sulla 27, sulla 27 poi è morta, ma solo qua, perché voglio dire, se tu vai a Cagliari, se vai da altre parti, sono tutti online, qua sono... c'è stato il boom negli anni passati e poi è andata a morire e siamo rimasti 4 gatti. Sì, infatti siamo rimasti soliti, i più anziani della frequenza siamo rimasti, e non solamente di età, perché c'è qualcuno giovane ancora, come te ad esempio, e tanti altri, tipo Luca Del Monte e tanti altri, e ce ne sono giovani. Comunque siamo rimasti sempre i più anziani della frequenza, non dell'età, della frequenza. Poi in quanto età, lo so, tra me e Gio Maria siamo forse più anziani della 27, perlomeno qui a Sassari. Poi se nel circondario di Sassari c'è qualcun altro ancora più anziano di me o di Gio Maria, questo non te lo so dire. Il fatto sta che non lo sentiamo, non si fa sentire. Anche Gio Maria ogni tanto, insomma, sta mollando anche lui, vuoi che sia la voglia del tempo e quant'altro, un po' lo sento contore, però non è più come una volta, dai. Certo che no, dopo oltre 50 anni di frequenza, cosa vuoi, che uno possa essere sempre fiorente come quando uno ha 20-25 anni, no, non è possibile, capita, lui c'è più di 55 anni di frequenza, ti puoi immaginare. Lui è anche più grande di me, di almeno 5 anni, siamo lì, per cui tu pensa che io ne ho suonato già 82, lui è già intorno agli 87, sicché a questa età cosa vuoi che ci mettiamo a fare? La stessa passione di 20 anni fa o di 30 anni fa, no, non è possibile, tantomeno la voglia di studiare per poter passare al radioamatore, non l'ho fatto quando ero giovane, figurati se lo posso fare adesso, o meglio se lo voglio fare adesso, ma nella maniera più assoluta. Idem con patate. Lasciamo perdere, non ce ne voglia, non c'è tempo, ci sono cose credo più importanti, almeno per quanto riguarda la mia scelta, più importanti sul lavoro, quindi impegnare la testa su quello che lo si sta facendo. Questo è un divertimento che, vabbè, la maggior parte della gente sono pochi quelli, perlomeno che conosco io, sono pochi quelli che hanno fatto realmente l'esame come si vorrebbe fare, quindi lasciamo perdere. Infatti io lo stesso l'avrei potuto fare quando ero più giovane, ma allora ero impegnato col lavoro e il mio lavoro praticamente consisteva su 24 ore su 24, perché durante il giorno uscivo praticamente al buio la mattina e rientravo la notte al buio, sì che ti puoi immaginare, tutta la giornata impegnato col lavoro, poi durante la notte anche quando ero addormentato, anche allora stavo sempre lavorando, perché pensando ad organizzarmi per l'indomani, per quanto riguardava tutta la mia attività, i calcoli, il legname, consegne, e tutte queste belle cose qua, e tasse, e tutte le cose che si devono fare quando uno lavora proprio, per cui la mia vita era impegnata 24 ore 24, anche quando dormivo. Ah no, stavo uscendo, ora c'è qualche filo che mi sta causando un po' di problemi, vero? Non stavo uscendo? Sì, avevo iniziato, ha detto due parole, contatte, e poi si è mancato per un po' e poi è ripreso alla grande, adesso ci sei di nuovo alla grande. Sì, me ne sono accorto perché, vedi, adesso vediamo il... sì, già sta andando ora. No, ma deve essere qualche filettino che tocca non tocca, tocca non tocca. Comunque, io non so se tu te ne sei accorto, io ogni tanto cambio il microfono, non so se tu sei accorto del cambiamento. Sì, adesso rispetto a prima, prima che tu dicessi che sto uscendo, avevi l'altro, però guarda che è più possibile, non è che se uno non ci sta proprio attento non se ne accorge nemmeno che hai cambiato il microfono. Vedi, quindi segni evidente che abbiamo raggiunto un ottimo risultato, Giulio. Io adesso questo qua lo lascio fisso perché ha un piccolo problema della ghiera, adesso la sto avvitando perché se no, eccolo qua, se no se si muove leggermente non esce. Quanto siete chiacchieruni, che hai visto? E cosa ci vuoi fare se siamo nati chiacchieruni? Avanti. Ciao Giulio, ciao Tino. Ma quanto sia ascoltone tu invece, ciao Tonino. Ascoltone, sì, mi sono ascoltato un bel pezzo perché mi stavo riposando la schiena. Ho fatto un po' di pulizia, il magazzino che c'era tanto in quella buttare via, ho fatto tre bustoni in piedi di spazzatura, stasera butto via. E mi faceva male la schiena, la verità. Io ho già un lavoro, io sono in pensione, quindi da tre anni. E mi sono suonato un bel volentieri. E ho detto, beh, adesso mi siedo un po' e io dico c'è un chiacchieruni, ok? Va bene, dai, riprendi Giulio. Ok, ciao Tony, me l'ho ascoltato, come sempre. Sì, beh, chiacchieruni, intanto eravamo soli io e Tino, anzi adesso ci sei anche tu e ci fa piacere sicuramente, non solo a me ma anche a Tino, che almeno siamo i tre e possiamo ampliare anche un po' il discorso, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Beh, cosa vuoi dire? Come dire, maledetta passione del radio, si può dire, no, anzi io direi benedetta passione per la radio, Tino. L'altro, aspetta un attimino che rispondo all'altro. Mi si è attaccata per un attimo la corrente, Tino. Per un attimo mi si è attaccata la corrente, e poi si stava rimodulando. Ha detto un attimino, forse c'è un piccolo problemino, oppure fa passa, non lo so. Si è spostato un attimino. Ok, no, adesso mi sono ripristinato, no, non c'è problema. Sì, per un attimo mi era mancata la corrente. Va bene, e allora, cosa mi racconti oggi, Tony? Tutto bene? Più che altro fare un po' di pulizia, dai. E c'è ancora da fare. Ho tre bussoni di petti qui, bussoni da 1,20 m altezza, non è che sia elevata in circonferenza. Roba che io accumulavo, potrebbe servire, poi alla fine oggi ho detto basta. È inutile, sono già anni che non utilizzo questa roba che io non mi serve, comunque osservavo, mi sono tenuto questa roba importante e basta. Però c'era ancora da sistemare, capito? E io quando roba devo prendere ancora, ma come fatto? Piano piano, sì, in effetti anche della frequenza stavate parlando, non c'è più nessuno, in effetti. Io accendo, quando non c'è nessuno stato, spengo tutto, mi guardo la TV, poco fa acceso, ma io sono da un bel po' che mi sto ascoltando. Da quando ci viene anche a scrivere l'apparato che te l'è venuto, perché non funzionava più e trovo che l'avevi aggiustata, insomma, adesso mi ascolto, a me piace veramente ascoltarmi, un bel pensiero tranquillo, sereno, ero lì appoggiato sul cuscino, a cappello. Mi do chiudo gli occhi e poi invece è qua, che fidete, bella, insomma, la schiena però sono riposata. Adesso è troppo. Vediamo se Tino ha ripreso, Tino. No, Tino non ha ripreso, è più di giù. Ok, evidentemente è inapparato. Sì, e appunto stavamo facendo QSO così a rimbalzo continuo, per cui eravamo soli, perciò potevamo fare quelle altro. Abbiamo passato qualche minuto anche facendo i controlli, dicendomi che avevo l'alternata, eccetera, eccetera. Me l'avevano fatto notare ieri, perché avevo la batteria da qualche annetto, e tu mi dirai, ma ce l'ho avuto andato 3 anni, ce l'ho ancora qua, mi ha detto dopo ce l'ho avuto, perché ieri sera non l'ho nemmeno buttata e l'ho sostituita. Dunque la radio dice che ha migliorato moltissimo come potenza e come qualità, e ben chiaro, se non c'era l'alimentazione la batteria non dava. E allora, però mi stava dicendo Tino che c'era una leggera alternata, pazienza, però mi dice che quando mudano l'alternata non si sente, allora va bene lo stesso, non c'è problema. Forse dipende dal microfono, che è l'MB4 adattato a questo CRT-1009, è tutto lì, che è l'unica soluzione che ho io al momento per quanto riguarda la 27. Scusate, io non passo, eh? Sì, avevamo capito che forse era bassa, infatti l'ho detto Giulio che era il telefono, no. Hai finito la bassa o stai continuando? Riprendo subito, scusate. Ok, d'accordo, sì. Vabbè, comunque Giulio, io ho sistemato roba, mettendo a parte quello che mi serve e quello che non mi serve. E io da poco ho comprato anche 10 rotoli da seggiolante, perché insomma mi serve, quindi potrebbe servire, anziché avendo uno solo, meglio che compro tutto il pacco. Lei stamattina pulendo ho trovato 4 rotoli nuovi, ancora sigillati, detto con la busta ce l'ho fa trasparente, detto cavolo, e io la devo parare, vabbè, non sono mai piacere. Per dire, ho trovato anche roba che facciamo in trattato, che io ho utilizzato quelle del pertessere di Dio. E quei vecchi che ne ho, non parliamo, ne ho una scatola nuova che è conservata, ma comunque. E niente, ho trovato tutta roba che mi ha fatto piacere rivedere, pensavo che non ce l'avevo più, e piano piano io ho tanta roba che compravo, che trovo a parte, ancora infine. Quando comincia a fare pulizia, buttare roba che non serve, trovi la roba che hai pensato, forse non ce l'ho più, chissà che ti l'ha fatto invece. Ma comunque. E va bene, poi quando mi sono stancato ho detto basta, ho rimesso tutto a posto, ho chiuso tutto, lucchetto, ho passato, e poi niente, ho acceso il barattino, senza buio, non so cosa ho portato, senza altri canali. Non mi sono appoggiato, mi sono passato la schiena. Diciamo un po' cassata, dai, come sia tranquillo, sereno, e mi è fatto piacere ascoltarti. Alla fine ho resistito, sono entrato. Ok, sì, invece hai fatto bene, guarda, così almeno possiamo scambiare le due chiacchiere anche con te, oltre che con Dio, non c'è problema, ci mancherebbe. E anche io sono così, quando magari mi ritrovo, che so io, in un negozio tipo Bicom, eccetera, vedo il rotto del nastro, ne prendo 2-3 e li metto, già servono sempre, perché questo nastro isolante serve così, è un pezzo adesso, un pezzo dopo, un pezzo domani, un pezzo dopo domani, finisce che va a finire, che poi non te ne ritrovi più. Però adesso ancora già ce l'ho, almeno un rotolo e mezzo, tutto intero, ne ho uno rotolo blu e uno rosso, ne ho, per cui già va bene. Sì, è così. E poi tante altre cose, poi se dovessi considerare tutto quello che io ho tutta una bottega attrezzata, è per quello. L'unica cosa che mi mancava era un trappolo di quelli a coso, perché mi si era guastato quello che avevo a filo, diciamo, no? Avevo sempre quello a batteria, indubbiamente, quello ce l'ho sempre, e adesso ultimamente ho comprato un Makita a filo, pagato poco, 70 euro, 79 mi sembra, se ricordo bene, una cosa, diciamo, 80 non ci sono arrivato, ed è un ottimo trapano, è un Makita 1631 la sigla, è ottimo veramente, anche se ne avevo uno più grosso, ma quello lì era addirittura tassellatore, che fa da tassellatore e da trapano anche, oltretutto, però quello lì è grande, pesante, gli ho voluto prendere uno leggero da poter utilizzare in caso di piccoli lavori, diciamo, dai. Per cui mi mancava e ho detto vabbè, lo prendo, così ce l'ho, non mi servirà molto, però lo ce l'ho e quando mi serve ce l'ho. Beh, certo. Ma io di trapano ne avevo 4. Ho dato uno a mio figlio, uno che si era bruciato, e sono rimaste 2, Fosch, e l'altro mi ricordo che manca. Poi come tasseratori ne ho uno più grande dell'altro, belli pesanti, qualche volta l'ho utilizzato, la verità. Pulisco bene, conservati, tutti. Niente, non mi comprato un cespugliatore perché ne avevo uno che aveva il manubrio destra sinistra, e a me la verità comunque non mi piace, tanto è vero che mi vibrava tutto, ho detto ma che cavolo c'è, alla fine insomma c'è rotto, l'ho messo in vendita, l'ho venduto subito, addirittura è venuto uno da numero a prenderlo, e l'ho venduto di circa meno di quello che ho comprato io, e c'ho un paio di anni, comunque ogni volta che lo uso io lo lavo pulito, asciugato, e poi lo metto a posto. Questo 47 ci idrata, ti dirò che è bellissimo proprio, stupendo. Stessa cosa quando finisco di lavorare, svuoto tutta la benzina, lo metto in moto, quando è proprio secco allora faccio perdere il motore e lo metto in moto dentro la scatola e tutto a posto. Okay. Niente, poi come attrezzatura, qualche giorno c'è mezzo qua, mi sono l'attrezzatura che ho, infatti è Claudio, mi è venuto in mente Claudio Sportino che ha detto, fate carbone non ti fa niente. Ho un po' di attrezzatura perché mi piace per comprare roba che mi interessa, mi piace e che uso tra l'altro. E quindi niente, io anche a troppo, tanto è vero che mio figlio l'ha detto una volta, ma quando non ce la faccio più quanti sono portato. E mi ha detto sì, e poi mi devo portare il mio figlio a portare. Non è fatto un male. Ma comunque, ripeto, non mi è mai piaciuto chiedere un attrezzo a un amico o a chi si sia, mai. Sono geloso della roba mia e non ne do nessuna, perché ripeto, una volta che l'ho prestato qualcosa me l'hanno anche rotto, capito? L'ho prestato una cantata, era una balleria, era bruciata e poi non è che mi ha detto quanto ne pagate che te la compro, oppure te ne compro una più costa di me, non è che quello, nulla, zero, e pazienza, vuol dire che doveva bruciarsi, mi ha detto, capito? Allora, quella volta io, quando mi chiedo cosa, non ne ho. E quindi niente, così capita Giulio. Praticamente come attrezzatura io però sto comprata, non ho avuto niente nessuno, ma devo usarla, la posso fare alveata, dove la pulita. E quindi gioco. Ok, tu dici, sì, certo, e anch'io lo stesso. Tu pensa che tutte le macchinette di quelle a 220 volt che avevo in falegnameria, me le sono portate a casa, me le sono portate e qui mi sono attrezzato in questa maniera, così intendendo qualche lavorettino mi sa a mettere, ma così anche per giocare, magari faccio, poi distruggo, eccetera, solo per passare il tempo, no? Tu pensa, ad esempio, la troncatrice, quella per troncare il legno che fa 45 gradi e tutto, no? Sia in un modo che nell'altro, cosa ho fatto? Ho fatto un banco, una specie di banco, ho messo un piano e ci ho inserito quello, lo utilizzo come sega circolare, come banco sega, poi tutte le altre macchinette, la sega circolare e quella da banco, quella addirittura mi sono fatto una